E di questa lunghissima diretta per venerdì 22 novembre alle 8.04 minuti, fortunatamente con noi anche Erika Ilaria, le due voci protagoniste per la rubrica In Scena. In coro, buongiorno! Buongiorno! Doppio siamo state micro. Brave, coordinate, perfette. E poi una prova microfono doppio anche, stiamo sperimentando, facendo così dei lavori di cambiamento in redazione, anche perché tra poco avremo ospite chi? Yvonne Capece. Esatto, ora mi sento. No, ma è il cursore di quel microfono lì, vedi? È vero, è problematico. Oh, meno male, grazie. È vero. E come me è problematico. Vabbè, come tutti tu. Noi, dai. E Yvonne Capece, dicevi? Yvonne Capece con lo spettacolo Il Bue Nero o Della Cattiva Coscienza degli Italiani. Ci racconterà appunto la genesi di questo spettacolo che sarà in scena sabato 7 dicembre al Teatro Giovanni Testori di Forlì. E di questo ne parleremo nella seconda parte. Si parte invece con Agora Teatri, direttrice artistica Elena Di Gioia. Come ben sapete, noi seguiamo passin passino un po' tutto il cartellone di stagione 2019-2020. Quindi un titolo biondo come te, Erika, che è? Un titolo biondo come me, che è I Girasoli, che è uno spettacolo in realtà scritto da Fabrice Melchiot, che è un drammaturgo francese contemporaneo, ma a cura di Anna Amadori, ed è un debutto nazionale e andrà in scena domani, sabato 23 novembre alle ore 21 al Teatro La Casa del Popolo. Fabrice Melchiot, drammaturgo francese già dal nome, 1972 data di nascita, un autore che è già stato protagonista per altre realtà impegnate con temi di grande attualità. In questo caso, oltre alla famiglia, oltre al contrasto, oltre anche a una grande lucidità narrativa, allo stesso tempo troviamo in musica una colonna sonora curata da orchestra senza spine. Vi posso dire che in scena sono quattro donne, vi posso dire che protagonista è Anna Amadori, che abbiamo raggiunto per iniziare questa nostra rassegna chiamata In Scena. Sentiamo le parole di Anna Amadori per Fabrice Melchiot, I Girasoli. Si tratta di girasoli che raccontano di quattro donne, una madre e tre figlie, che sono in guerra, una guerra tutta fantastica. La casa è la trincea e il nemico è fuori. Loro sono chiuse in casa e il nemico è fuori, è il mondo pieno di insidie mortali per la maggior parte maschili. La strategia di Violet, la madre, è starsene chiusa e resistere come un corpo unico, ma le tre figlie cercano di sciogliersi, e, diciamo, questa di andarsene. La falange disarmata di femmine si sgretola a poco e questa lotta, questa tenuta diventa tutta interna, fantastica appunto. E allora le loro armi sono piatti di pasta immangiabile, brindisi alla chirurgia plastica, alle speranze bandite, vaccini online dalle 8 alle 12, canzoni incomprensibili, domande, crogli e fuori, insomma, finché ognuna di queste figlie trova una strada più o meno felice, il testo, la storia si conclude con un'unica figlia che rimane, che poi se ne va anche lei. Quindi è un testo molto particolare, molto molto bello, che varia dai toni da comico a drammatico, melodrammatico, ed è molto molto scritto, molto molto bene da questo autore che in Francia è molto conosciuto ma in Italia meno. Io ho già lavorato insieme ad Elena Di Gioia su un altro testo molto bello che si chiama L'Inatteso qualche anno fa, e che ha avuto un grande riscontro di pubblico e di tutto. Quindi per me è un ritornare a lavorare su questo autore, che è uno dei interessanti, che scrive molto bene sul femminile. You're sweeter than anything. I need you. Want to get closer to you. To you. To you. I want to get closer. closer to you now. Posso dire che avere lo studio pieno alle 8-11 minuti è un grande gesto d'amore per il Breakfast Club. Già avere mattiniere qui in diretta, presenti, lucide per la rubrica In Scena, ci rende molto molto orgogliosi. Piccola divagazione, torneremo a parlare di Agorà tra pochissimo, però onore al merito anche per lo spettacolo di sabato 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Giovanni Testori di Forlì, Il Bue Nero, con noi regista Ivonne Capece, che innanzitutto saluto. Buongiorno Ivonne. Buongiorno a tutti. Stavolta il microfono è andato benissimo. Sì, sì. Meno male, visto. Meno male. Contatto di Ilaria Cecchinato, che invito a andare in approfondimento per un paio di minuti e poi dopo prenderemo la parola in maniera più estesa per quanto riguarda questa realtà, Il Bue Nero. Il Bue Nero, esatto, della cattiva coscienza degli italiani, come sottotitolo. Abbiamo appunto la regista qui con noi e il drammaturgo questa mattina non ha voluto svegliarsi. questi uomini Marzio Badalì, è un progetto vincitore del bando per la memoria 2019, sì, della regione Emilia Romagna, esatto, però lo spettacolo rientra in un progetto molto più ampio che si chiama Io non ci sono, percorsi nell'Emilia Romagna fascista, antifascista e postfascista, che qui leggo da foglio stampa, incentrato sull'idea che i luoghi sono contenitori di memorie ma anche di corpi, e lo spettacolo si incentrerà sull'ingombranza del corpo, giusto? Di un corpo in particolare. Di un corpo in particolare. E per saperne di più, dopo la pubblicità, al primo stacco che faremo, rientreremo in seguito con la realtà che sarà a Forlì per sabato 7 dicembre. Continuiamo a chiacchierare con Anna Amadori per la drammaturgia di Fabrice Melchiot, I Girasoli. È un debutto, fra l'altro, Erika. Sì, esatto, si tratta di un debutto nazionale e tra l'altro il testo è a cura anche del Dipartimento di Lingue dell'Università di Bologna, che ha partecipato nella traduzione proprio di questo testo. E invece in scena saranno quattro donne, come è stato anticipato da te e come poi ci spiegherà meglio Anna. confermato. Confermato, certo. E anche l'orchestra senza spine è la parte, è la sezione di ragazze che sono presenti all'interno della stessa orchestra. Nella seconda parte di chiacchierata con Anna Amadori, a tale proposito, andremo in approfondimento con le altre compagne di viaggio presenti per i girasoli. E in questo caso ho avuto anche la presenza, la vicinanza, come per lo spazio della visione, per la creazione della vicinanza dello sguardo di Luigi De Angelis, di Fanny Alexander, che è stato insieme a me nella costruzione appunto di un allestimento di una scena, di una visione di questo lavoro che era stato proposto già il 10 maggio in forma di lettura scenica. E questa volta c'è anche un'altra novità, un elemento in più, la musica in scena del quartetto senza spine, un quartetto tutto al femminile che accompagna lo spettacolo con Quartetto 6, l'opera 80 di Mendelssohn, che per me è stato la visione di questo spettacolo, una delle basi di intuizione dell'interpretazione di questo testo. E quindi questa volta intreccio questo quartetto con le parti di testo, con il testo, e è una scommessa grande e spero di vincerla. Certo, è uno spettacolo di resistenza tutto al femminile con delle armi alternative, ecco. Sì, di resistenza, sì, e anche di vita con delle armi tutte femminili, tutte quotidiane, tutte domestiche. Il riferimento primo, come dice Fabrice, dice c'è una PS nascosta sotto la PS, che è la casa di Bernarda Alba, di Federico Garcia Lorca. Chi non la conosce, insomma, racconta la storia di questa madre con 8-7 figlie che lei tiene chiuse in casa dopo la morte del marito, lì per altri problemi legati alla sessualità, legati alla morbosità della relazione col maschile, legati a problemi di eredità, eccetera, eccetera. Qua, diciamo, la chiusura della casa di Bernarda Alba diventa una chiusura in altre forme e per altri motivi, ma l'idea di un mondo femminile chiuso e appunto in opposizione e in resistenza, sì, è esattamente quello che hai detto tu. E quindi l'appuntamento è per sabato 23 novembre, ore 21, teatro La Casa del Popolo di Castello d'Argile. Ti ringraziamo tantissimo, ti diamo appuntamento nuovamente nella nostra rubrica In Scena dedicata al teatro sui 103.1. Grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. It's a click time. Hey. 50 Peter in the media, so get a wine. If you is a red eye, then you best walk with shade. If you is a high top, since it's overcome to phase. See, we don't do the hip-hop, cause we ain't hip-hoppers. No, no, dealing up for jazz. Can't be jazz bops, but the funk is the king. Couple of music that we're making. I dig a little deeper, and the route was undertaken. Destination hazy, ain't cause we're lazy. Just boldly going there. Bass is getting bassy, so come and stand firm. If the rhythm rides your glee. Feel us on my toes as I have the happy tweet. Then a boom. Boom! Then a rang. Rang! Now watch it come back, oh watch it come back, oh watch it come back. It's a boomer boomerang, ram slam, babbity boop boy. Never claim a hardcore, but here's a little more that I know you can't ignore. See, when I brush my teeth, I just use a base. Yeah. No, it's not a chili, cause you're not a lot of taste. Yeah. When I sport and beef, I never wear them lace. What? And when I'm coming, but it's never in haste. Oh, chickity chickity chick, chick, a cheeky cham cham. Can I get a bam if you trust Uncle Sam? Bam. It was a bam, how you know you can? You're betting on a winner and you got the almost wrong. See, pew, pew, Barney McGrew, a cupboard dibble, grub. You live long and prosper, just like Spock. Now who's it at the door? I'm sure I heard a Vulcan. Like the Burberry lining, no creases in the looping, cause you know I can't be finding a little lump of hills getting in my way. A special agent needs a room for hip to sway. Sideburns getting longer, the funk is getting stronger. G-force like first rhyming with the conga, partaking in the files, connected by the vibe, just trying to make the rhythm breathe to keep the vibe alive. Need another slam, reaching for tequila. May I introduce my mother? Her name is Sheila. So what's talking mad? You got no hit, you're on your own. in on the label means he yet to use the phone. Crashing more than Wall Street, the drums that rock the house. Chase a funky snare like a cattle chase the Jerry. Jerry, man, Tom and Jerry. Come on, do the vocal boost. Hold the mouse. The vocal boost. New sound, well problems what you got. If there ain't a definite crew, who you selling to? Everyone coming up now, I front you. What it's zickety zang, zick zang. Bullets past my head, see the smoking from the tongue. With the verbal lead, caught in the crossfire. So what to do, who gives a fuck? Let's just do it cause it's new. See what around that top west, funk ain't stale. I'm the one who stops a cab's complexion. Picking up the floor, and maybe times are hotter. If you bet it's from the gutter, then you flutter. Well I might have seen when the stuff is better. Hard as saying yo, what's your toes doing? There's a thought, now I go. Hat is for wearing, cat is for purring. Rooker buying means no tearing. This rhyme is lucky's way, look at the state we're in. And I swore by the hands on my chinny chin. Chest. Hey. Listen here! Oh, oh, man. Oh, no, man, you've done it again. You've got to sort it out. Understand. What happens, right? You don't should be like this time. No more verse. Oh, wait, I say, listen, right, this is just one individual aspect of my involvement in music. I might clap you with the rod of courage, John. A Joyful Noise, Unto the Creator, loro sono i Gagliano, Totally Together, il brano che andiamo a sfumare, che ci riaccompagna in studio quando sono le 8:20 minuti. Quindi, alla quarta edizione, la stagione di Agora prosegue, l'importanza del teatro in provincia, a Castello d'Argile, teatro comunale La Casa del Popolo, I Girasoli è un debutto, è una scrittura di Fabrice Melchiot. Spero di averlo pronunciato bene, il mio francese è pessimo. Ma immagino... Ah, guarda, io non saprei come correggerti né aiutarti, però suppongo di sì. Dai, vai. Andiamo a Matteotti 150, appunto a Castello d'Argine. Abbiamo ascoltato una presentazione di Anna Amadori con Consuelo Battiston, Marinocchio Nero, Giuliana Bianca Vigogna, la musica in scena e con il quartetto Senza Spine. Ed è alle ore 21. Giornata nebbiosa oggi. Sì, strano direi. Come se novembre non fosse mai quotidianamente nebbioso, mai, proprio mai, insolito. E i primi acciacchi anche arrivano, eh. Salutiamo Valeria che oggi è un po' a riposo per quanto riguarda Jet Live dalle 11:30 alle 12:30. Sì. Ci sarò io con Piero Bittolo Bon e Francesco Bettini. Presentazione, debutto del disco della Tower Jet Composer Orchestra. Altri ospiti in diretta con noi per il vostro osservatorio sul jazz. Pirates ruling the nation. Insieme intanto con Ilaria ed Erika ci ha raggiunto Yvonne Capace, Capece, dico bene così, sì, Capece. Ecco, perché ogni tanto io con le vocali... No, ma capita spesso. È vero, però è Capace. Sì, sì. Speriamo. Ma iniziamo a fare un po' una tua biografia, dai. Così. Io sono napoletana. Bene, questo già è un valore aggiunto. È un valore aggiunto. Ma certo. Beh sì, se si tratta di teatro, suppongo poi in particolare, quindi sì, insomma, mi sono formata, sono napoletana e mi sono formata a Napoli. Però sono a Bologna da una decina d'anni, un po' più di 10 anni, quindi in realtà, insomma... E da subito ti sei occupata all'interno di questa realtà? Di cosa? Come inizia l'origine? Io ho cominciato come attrice, quindi a Napoli ho fatto una serie di scuole e poi insomma ho lavorato come attrice per alcuni insomma registi napoletani, in particolar modo Carlo Cercello, ho lavorato per molto tempo con lui, poi sono venuta a Bologna e insomma un po' la strada si è allontanata, nel senso che quindi la mia formazione è attoriale, però sono diciamo decisamente orientata verso la regia da un po' di anni. Nei due progetti precedenti a questo ho anche recitato, quindi recitavo anche oltre insomma a occuparmi della regia, però in questo caso ho lasciato diciamo la parola agli altri. E il tuo rapporto con Sblocco 5, che è scuola e associazione culturale? Non ho... Sì, io sono il presidente e quindi Sblocco 5 è un'associazione che insomma è a Bologna, sono 5 anni e quindi è fondata da me e da altri soci, e è una scuola di teatro e una compagnia teatrale anche contemporaneamente. Quindi noi siamo in Porta Mascarella, in via Zucchini in particolare, quindi abbiamo appunto questi corsi di diversi livelli, fino appunto a livello professionalizzante, anche insomma stage di regia, drammaturgia, in alcuni, di alcuni anche parte marzio. E niente, e poi siamo anche una compagnia. Infatti la produzione di questo spettacolo è la produzione, sì, è una produzione di Sblocco 5, con il contributo della Regione Emilia Romagna, quindi in realtà di Sblocco 5 con Regione Emilia Romagna e la partnership del, di Elsinore, che è un centro di, produzione. Hai ascoltato attentamente? Molto attentamente, dubiti che io sia attenta? No, no, ti vedevo, No, sono molto interessata, ma in particolare vorrei farti una domanda riguardo invece il progetto più ampio all'interno del quale poi si è sviluppata l'ideazione di questo spettacolo. E il progetto, come citava poco fa Ilaria, si intitola Io non ci sono, percorsi nell'Emilia Romagna fascista, antifascista e postfascista. Di cosa si tratta e come si colloca lo spettacolo al suo interno? In realtà il progetto che insomma che ha vinto il bando della regione è Io non ci sono, ed è un progetto che include una trilogia di spettacoli che nel loro complesso toccheranno il periodo che va dal 1912 circa ai primi vent'anni della Repubblica, quindi più o meno fino agli anni 60 o 70, e quindi associa questa trilogia di spettacoli con dei percorsi, quindi con degli audio spettacoli che appunto in particolare per questo progetto saranno disponibili insomma dal mese di dicembre sui nostri social, sui nostri insomma canali, che possono essere attraverso delle app che possono essere scaricate diciamo gratuitamente e che consentiranno a diciamo lo spettatore non solo di partecipare allo spettacolo ma anche di poi fare insomma questo percorso personale con questo ascoltando. Certo. Diciamo da solo questo insomma audio spettacolo ad alto impatto emotivo che in qualche modo lo rimmerge in alcune realtà storiche scomparse, ecco. Quindi in generale il progetto si chiama Io non ci sono perché appunto è connesso con ciò che rimane dei corpi all'interno del diciamo corpo architettonico di una città, e quindi come rapporto tra il corpo duraturo, tra i corpi duraturi rappresentati dagli edifici e dalle strade della città e invece i corpi di chi li attraversa che scompaiono. Quindi la domanda è cosa resta appunto di quei corpi nel momento in cui il loro passaggio non è più tracciabile in termini fisici, ma la città, il corpo della città ne riporta ecco dei segni. Ed è interessante appunto osservare come i luoghi a volte cambino completamente, cioè rimuovano anche a livello diciamo proprio concreto materiale, rimuovano non solo la memoria ma rimuovano anche i contenitori di questa memoria, quindi edifici che sono stati diciamo ad esempio fondamentali o particolarmente rappresentativi di un periodo storico, insomma in questo caso il fascismo ad esempio, che vengono magari distrutti, scompaiono, assumono delle funzioni completamente diverse, diventano supermercati, cioè si allontanano o scompaiono, si allontanano profondamente dalla loro origine. E al contrario invece altri luoghi che come dire resistono, mantengono una connessione diciamo profonda con il loro passato. Il progetto è nato da uno studio su la Bolognina, che poi è il quartiere dove io abito, insomma notoriamente luogo di memoria resistenziale, in particolar modo la zona di Piazza dell'Unità, che era che però è diventata un luogo completamente diverso. Nel caso della Bolognina è molto interessante questo perché è anche un quartiere che nel corso dei decenni è diventato densamente multietnico, oggi è estremamente multietnico, e quindi cioè, non c'è solo un problema diciamo di scomparsa della memoria storica legata al passaggio di generazioni, quindi il passaggio tra vecchi e nuovi italiani, cosa rimane della, diciamo, memoria storica di quei luoghi, ma anche in questo caso è proprio un passaggio di generazioni tra, diciamo, vecchi e nuovi italiani, o italiani proprio di prima o di seconda generazione, che portano con sé memorie proprio di altri anche luoghi geografici. E quindi è un, insomma, è, nel caso in particolare della Bolognina, la questione è molto interessante. Diciamo che il progetto originale prevede un lavoro su un triangolo di città della memoria, che sono Bologna, Forlì, appunto, dove poi debuttiamo con il Buenero, e Ferrara. Bologna come appunto città della resistenza, Ferrara come città della repressione nazifascista e Forlì come simbolo. Sai cosa, Ilaria? Se dovevi portare un ospite che non parla, non ci sono riuscita. Hai capito? No, meno male invece. Assolutamente sì, ci serve qui sì. Poi in radio è fondamentale, c'è bisogno, è fondamentale anche. Ma com'è questo spettacolo? Bello? Ma poi quelli che rispondono a monosillabi di solito sono sempre, esatto, un pochettino. Ma non è questo il non caso. Non è questo il caso. E ne siamo molto molto contenti, esatto. Il Buenero sarà protagonista nella seconda parte della nostra rubrica In Scena, o della Cattiva Coscienza degli Italiani. A tra poco sui 103.1 con i Bon Capeccio. There's no one about. Open a window, see a great day. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh, everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, T-for-2, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her 1, 2, ooh, 1, 2, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, all right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes the, ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it 1, 2, all right. 8:39 minuti, tornando in diretta, puntuali per la seconda parte in scena. Sono aumentate le note più ritmate, senti l'aria. Sì, sì, sì, infatti ci stiamo svegliando tutti. Piano piano. Piano piano. Ti stai anche togliendo la sciarpa. Già. Questa forse non la toglierò proprio per tutto l'inverno, l'avrò sempre addosso. No, perché dovete sapere. La seconda sapere. Pelle, la mia seconda pelle. È già un segnale che qualcosa si sta muovendo nella mattinata. Di solito verso mezzogiorno il cappotto lo spigliamo. Più o meno, più o okay. meno. Non lo so, perché visto il tempo oggi mi sa che mi tolgo neanche quello. To do the things I used to do for you. Just call my name, I'm not ashamed. Willy D'Agora presente per questo weekend. Passiamo già al prossimo sabato 7 dicembre. Ma parlare già di dicembre, ieri per il weekend in spiaggia al mare e oggi già parliamo, è un attimo. Ma dicembre è già qui, è dietro l'angolo. È già qui. Avete già Natale. Visto qualche addobbo natalizio? Sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì. I'll come running back to you. Il Babbo Natale che si arrampica, va per la maggiore. Mamma mia, io quando ero bambina mi spaventavo, perché quando passavo per la strada in macchina, così, quindi velocemente, e vedevo tutti questi Babbi Natali che si arrampicavano sulle finestre dei palazzi, mi prendevo dei colpi perché pensavo fossero delle persone. Al ladro! Tipo, mamma, ma cosa fa quell'uomo, no? È finto, però. I try to forget. Have no regrets. This love of ours could always start anew. Per sabato 7 dicembre lo spettacolo invece, tornando in scena, la rubrica del venerdì dal Breakfast Club, sa al teatro Giovanni Testori di Forlì. Ilaria, come conosci Yvonne? Io Yvonne in realtà l'ho conosciuta oggi. Esatto. Fai presto a fare amicizia. Faccio presto, hai visto? Vabbè, ma l'ho conosciuta. Cioè tu l'hai vista, l'hai trovata, dici, ma tu sei Yvonne, capisci? Esatto, così. Vuoi venire così. In radio? Esattamente. No, non è vero, abbiamo un amico in comune che è Marzio Badalì, il dramaturg della compagnia. Ci ha connesse il dramaturg. Dramaturg. Esatto. Dramaturg, sì, perché è una non è un dramaturg, è una figura nuova in realtà, perché è insomma una figura di teatro che si occupa del, mi han detto, manipolazione di testi, perché in realtà comunque è assistente, consiglia, osserva. Sì, sì, ha una funzione di supporto nell'elaborazione dei materiali testuali. Sì, ok. Adesso esattamente. Senza essere il drammaturgo, cioè il creatore totale del testo. E infatti manca una letterina. Manca una piccola parte. Esatto, quindi abbiamo questo tramite in comune, questa... questa persona che non si è svegliata questa mattina, lo continuerò a dire. Sì, questo gliela farò pagare. Lo salutiamo, scherzando assolutamente. E nulla, ma entriamo un po' nello specifico dello spettacolo Il Buenero o della cattiva coscienza degli italiani. Come si inserisce all'interno del progetto più ampio e che cosa vedremo in scena? Si inserisce perché racconta la storia di un corpo centrale all'interno della, diciamo, esperienza storica della dittatura, che è chiaramente il corpo di Mussolini, un grande classico italiano. E niente, è sostanzialmente un attraversamento dell'esperienza, appunto, della dittatura fascista, vista attraverso l'ingombranza di un corpo che è il bue nero. Cioè il bue è un corpo, appunto, imbarazzante, ma anche di enormi dimensioni, così come Mussolini è stato. Mussolini, appunto, ha ingombrato col suo corpo l'immaginario, ma anche lo spazio fisico delle città, delle case private degli italiani per 20 anni, e anche poi quando è morto, diciamo, per le circostanze particolari, cioè per il modo in cui, insomma, si è svolto la fase, diciamo, il trapasso, e poi le reazioni immediatamente successive, la clandestinità della sepoltura, il trafugamento della salma, insomma, è stato poi anche un cadavere ingombrante che ha sbarrato la strada alla democrazia, diciamo, sia prima che dopo la nascita della Repubblica. Infatti, tra l'altro, lo spettacolo inizia da questo. Lo spettacolo è costruito tramite degli sketch che in realtà, appunto, saltano avanti e dietro nel tempo, però, appunto, questo è una cosa che anche Marzio ci tiene molto a precisare, cioè non è un attraversamento storico, ma è un attraversamento emotivo, quindi è un racconto anche abbastanza, cioè le immagini sono molto, cioè sono simboliche, sono surreali, e è un viaggio all'interno della coscienza degli italiani, quindi delle forme di innamoramento durante il ventennio fascista, e poi delle conseguenze di questa cattiva coscienza, la cattiva coscienza, appunto, di quegli italiani che erano stati fascisti, non volevano più esserlo, ma nemmeno volevano sentirsi in colpa per esserlo stati. Una fase onirica molto presente. Molto presente. Lo spettacolo è proprio un viaggio dentro la coscienza di un popolo, per il modo in cui la regia è costruita e anche le scelte drammaturgiche sono state fatte. I motivi di ricerca che avete fatto? A livello proprio di materiali testuali siamo partiti da una serie di saggi storiografici controversi che, appunto, raccontavano in particolar modo gli italiani, cioè la relazione degli italiani di fronte alla corporeità del duce, quindi il fascino proprio, insomma, anche quasi, insomma, erotico che le donne provavano, il fallocentrismo di certi, diciamo, aspetti, il macismo di certe componenti proprio della cultura fascista, ma in generale il feticismo che la gente ha sviluppato. Ne dico una, per esempio, fra tutte, anche se non è quella, diciamo, non è presente questa immagine in particolare dentro lo spettacolo, e cioè il fatto che, appunto, per esempio all'indomani dall'esposizione in piazzale Loreto hanno cominciato a diffondersi per tutte le edicole d'Italia le cartoline propagandistiche ricordo di piazzale Loreto, e i mariti affollavano per poterli portare alle loro mogli, al punto che poi, ecco, il governo ha dovuto prendere provvedimenti perché erano talmente diffuse come forma di feticismo, diciamo, post mortem, ed erano andati esattamente a sostituire il quadretto nel quale, insomma, il primo piano del duce campava così in ogni casa. Quindi questo, in sostanza, è un viaggio nella coscienza degli italiani, più tecnicamente è la storia di un corpo. Di un corpo morto, la storia di un cadavere. Sì, proprio per questo, per quanto riguarda la messa in scena, se possiamo fare delle anticipazioni, altrimenti no, come sarà rappresentata l'ingombranza di questo corpo? La metafora è quella del bue, che quindi ritorna in forme diverse, sia diciamo insomma segnalate sia sul piano scenografico che diciamo che del contenuto delle scene. È il ritorno dell'elemento del bue, quindi della testa, appunto intesa come corpo estremamente invasivo. No, è strano perché il bue, tra l'altro, è un animale eunuco. Eunuco? In che senso? Il bue è castrato. Sì, sì. Diciamo che. Proprio in nasce generale vitello e se ha il suo percorso naturale diventa toro. Sì. No. Spesso questo non accade. Ah no. Ecco, diciamo, ma sì, la questione della castrazione metaforicamente, sicuramente della castrazione o no, rientra nelle simbologie dello spettacolo. Per esempio, all'interno di una serie di scene ha una grande importanza il transfert che facciamo visivamente tra le vittime della guerra e del regime e degli slip da uomo che precipitano, insomma, invadono la scena. Quindi non è una cosa, insomma, vera quella che tu stavi, insomma, notando. Che ho notato. Sì, assolutamente. E niente. Mi aggiungo io, posso? Ma c'è anche, ci sono appunto due attori in scena che però fanno numerosi personaggi, quindi non c'è solo il bue, ma si dà voce alla coscienza degli italiani. Sì, esatto, cioè il bue inteso come Mussolini non c'è mai in scena, appare in forme distorte, non è mai raccontato attraverso se stesso, e la stessa esperienza del regime è raccontata attraverso una delle sue principali, diciamo, collaboratrici, che è stata Margherita Sarfatti, e che è una figura paradossale in quanto lei è appunto la donna che ha proprio fondato il mito del duce, inventando anche la parola. Era una delle sue amanti ed era ebrea, quindi raccontare il duce attraverso, diciamo, il contrasto ma anche la surrealtà di una creatrice donna ed ebraica, di religione ebraica, è molto, cioè, è, insomma, è stato un momento della vita del popolo italiano parecchio carico di contraddizioni, molto paradossale. Sì, sì. Ce le portiamo dietro proprio perché non sono state adeguatamente elaborate. C'è il mito resistenziale, che comunque si è fondato su un tabù molto forte, che è quello dell'esposizione del corpo, della, insomma, anche aggressione fisica del corpo ha pesato anche sulla coscienza della resistenza, ecco, impedendo di fare della morte del dittatore un mito di fondazione della Italia nuova. Sì, è indispensabile in questo momento, poi tra l'altro di grandi rigurgiti. Indispensabilissimo. È indispensabile di avversione riuscire a portare contenuti che aiutano a fare i conti con il passato. Che sì, l'intento di nascita, insomma, il progetto nasce in particolar modo in connessione a questo. Fritz Lang, regista importante fra l'altro, viene convocato da Goebbels, il ministro della propaganda del partito nazista. Fritz Lang si rifiuta perché dice: nonostante il grande successo, voi mi state cercando, voi volete saperne di più, ma quello che probabilmente non sapete è che io sono ebreo. La risposta di Goebbels è: ma lei non ha capito niente. Lei non ha capito che chi è ebreo e chi non lo è, lo decidiamo noi. Più o meno mi è venuto in mente questo incontro a proposito della Sarfatti. Chi è ebreo e chi non è ebreo, lo decide poi il potere, in quel caso il potere. Nel caso appunto della Sarfatti è molto la questione è particolare, in particolar modo perché appunto lei racconta all'interno di queste memorie che proprio nelle fasi di formazione del fascismo, quindi per esempio nel periodo della marcia su Roma, una grandissima quantità di aderenti era ebrea e il movimento fascista usufruì dei finanziamenti ebraici per tutta la fase di affermazione prima di negare poi diciamo il legame con le leggi razziali. Sì, vi sono tantissime cose fra l'altro che sono tenute in maniera carsica, nascosta, mentre invece riportarle, come dicevo in precedenza, per riuscire a fare i conti con il passato in un momento come questo è fondamentale. Ricordiamo quindi che sabato 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Giovanni Testori di Forlì sarà un percorso che coinvolge anche Bologna, anche Ferrara, e che dire, noi lo seguiremo. Assolutamente, sì. Ma vogliamo ricordare anche le date di Bologna e di Ferrara? Sì, certo, siamo a Bologna l'8 dicembre nella Sala Centofiori, perché è patrocinato naturalmente anche dal quartiere Navile, e invece siamo il 27 dicembre a Ferrara nel Centro Quadrifoglio. Bene, puoi tornare a dormire. No. È stato bellissimo. Quindi tornerai? Speriamo proprio di sì, se mi vorrete. Certo. Ti aspettiamo. Puntata ricca oggi, eh? Molto ricca. Intensa, direi anche. Come più che una concentrazione, è stato un motivo di dialogo esteso, come capita nel nostro rotocalco, che più che incentrarsi su uno spettacolo solo cerca fili conduttori importanti che legano diverse situazioni, diverse realtà. Torneremo venerdì prossimo, quindi. Assolutamente. Vi diamo intanto qualche comunicazione di servizio, che tra pochissimo ci sarà l'Edipeo enciclopedico, che non ho ancora scoperto dal titolo, quindi non vi posso neanche svelare nulla. A seguire Radio Bullet, la rassegna stampa con Andrea Utensili. Radio Bullet darà il via a questa parte legata all'approfondimento delle notizie, il nostro GR intorno al mondo. Dopodiché Elisa Iacobucci dalle 10.30 alle 11.30 con Chi fa da sé fa per te. Ci ritroviamo per Jazz Live dalle 11.30 alle 12.30. Si conclude con GR Iskra e il Last Minute questa mattinata di venerdì, vigilia di weekend. Nulla da dichiarare? Io no, a parte il fatto che sono molto affamata, no, nulla da dichiarare. Io che ho molto sonno, basta. Perfetto. Tutti felici e contenti. Ringraziamo quindi Ivonne Capece. Grazie, ti aspettiamo ancora, a parte grazie gli scherzi, chiaramente. Che dire, restate con noi sui 103.1, la rubrica In Scena tornerà venerdì prossimo. Noi vi raccomandiamo la musica di Radio Città Fujiko, che ci farà da tramite tra una chiacchiera e l'altra per quanto riguarda il breakfast. Un buon weekend e una buona giornata. Ci sentiamo lunedì con i magazine. Grazie ragazze. Grazie ciao. A te Will. Ciao, grazie, ciao. Ciao Ivonne. Ciao, grazie a voi.